Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Sapevamo che il livello di menace terroristica restait extrêmement élevé. Nous n'avons che la minaccia terroristica era molto molto alta. Nelle ultime settimane abbiamo avuto conferma di questa situazione estrema. Sapevamo che la vigilanza e la mobilitazione dovevano restare assolute anche dopo la fine del torneo. E di façon extrêmement violente. E ça implica. Perché sapevamo di questa volontà di colpirci in maniera estremamente violenta da parte dei terroristi. La Francia è stata colpita nel giorno della sua festa nazionale, il 14 luglio, simbolo della libertà. Perché i diritti dell'uomo. Io non trovo affatto paradossale, come poco fa è stato detto, che questo attentato abbia scelto il 14 luglio. È l'esatta contrapposizione a quello che sta accadendo adesso nel mondo. Era l'assalto alla Bastiglia, l'inizio della Rivoluzione francese. Si assaliva qualcosa che era il simbolo di un potere teocratico, un potere dato dall'alto, un potere assoluto, un potere indiscutibile. La parte umanità che ha cominciato a pensare che è la molla fondamentale della nostra evoluzione, il porsi domande, avere un elemento critico, mettere in discussione ciò che sembra scritto con lettere di fuoco nelle porte del cielo, è l'inizio del mondo moderno. Questo attentato vorrebbe rappresentare ciò che è l'odio più esasperato proprio per questo spirito critico che ha il mondo moderno. È un attentato di radice religiosa, profondamente religiosa, è un attentato che dà corpo a una parte sicuramente distorta di quello che è il mondo islamico, è un attentato che è stato fatto da persone che vorrebbero restaurare un mondo in cui esiste una parola di Dio scritta nel cielo e gli uomini devono adeguarsi, devono sottomettersi. Ho guardato ieri, poco prima di questo attentato, che non sapevo che sarebbe accaduto, uno dei tanti filmati che girano in rete, la lapidazione di una donna. Il carnefice, con tono affabile, si rivolgeva a lei, dice: sorella, hai qualcosa da dire? Ti sei pentita del tuo gesto prima che passi a miglior vita e espi la tua pena? E lei ha detto, sottomessa: sì, sorvegliate le vostre donne, non le fate stare più di tanto tempo da sole, se no il demonio le tenta. Padre, perdonami. Lì accanto il padre dice: no figlia, non ti posso perdonare. E mentre parlavano tutti avevano un sasso in mano, poi l'hanno presa, l'hanno interrata e l'hanno ammazzata a sassate. Questo è il mondo che vorrebbe essere restaurato. È inutile ci prendiamo in giro, è inutile continuiamo ogni volta ad aggrapparci ai nostri valori. Noi abbiamo dei valori perché siamo civilizzati, perché siamo dalla parte di quelli che quel giorno assaltarono quella Bastiglia. Noi uomini civilizzati non possiamo continuare a stare a guardare e a dire: noi perché siamo civilizzati non si fa nulla. Beh, questo il senso a trasmissione che faremo fra poco è sentire alcune persone che ci possono dare delle risposte, perché hanno sott'occhio con attenzione degli scenari internazionali, perché il mondo civilizzato non fa nulla contro l'inciviltà. E guardate bene, io sono l'ultima persona che possa essere accusato di un bieco oltranzismo, di un odio razziale, via dicendo, però è il momento in cui ci facciamo questa domanda: fino a che punto l'essere civilizzato può stare a guardare e contare i suoi morti? 800240024, a tra poco. Melog. Cronache meridiane. Il terrore colpisce ancora la Francia nel giorno della festa nazionale del 14 luglio. Ieri sera un uomo alla guida di un camion si è scagliato 80 km l'ora sulla folla che assisteva ai fuochi d'artificio sul lungomare di Nizza, sparando a terra sulla famosa... Reagisce subito con il primo SMS, un atteggiamento altrettanto, secondo me, criticabile rispetto a quello che ho poc'anzi sottolineato, che è quello della retorica tipicamente occidentale, che si fa dei valori astratti, non dimostrando poi in quale maniera pratica comunque è disposta a mettersi in gioco per difendere quei valori. Non vi rendete conto, mi scrive un ascoltatore, di revocare continuamente questi fatti, enfatizzare sempre queste cose, fate il loro gioco, lavorate per i terroristi. Paolo, ecco Paolo, non dovremmo raccontare quello che è successo, dovremmo fare finta che non è successo, non dovremmo enfatizzare, dovremmo dare una bella verniciata di bianco tutto quello che è accaduto a Nizza, quello che è accaduto nei nei giorni precedenti in altri luoghi e con altrettanta crudeltà. È inutile secondo me continuare a scandalizzarsi, a dire il terrorista si è mosso in maniera cinica, ha colpito anche bambini. Non sono molto d'accordo, ma la mia opinione personale, che abbia senso la foto che oggi campeggia in prima pagina di tanti giornali di un cadavere coperto da un telo con accanto un bambolotto, una foto che farà la storia. Perché è stato messo quel bambolotto accanto a quel cadavere? Perché dobbiamo sempre cercare un punto estremo. Già se il terrorismo che uccide in maniera indiscriminata è cinico, è spietato, non guarda in faccia a nessuno, perché dobbiamo aggiungerci anche il bambino e far capire che è più cinico. Non esiste nulla di più cinico che il terrorista che uccide in maniera indiscriminata, quindi già in sé rappresenta il punto più alto del cinismo, qualunque sia la causa per cui si muova. 800240024. Alfredo Mantici, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Direttore della rivista geopolitica Lookout News, capo, ex capo del Dipartimento Analisi del SISDE. Se guardiamo un attimo lo scenario internazionale, quelli che comunque avevano mezzi e strumenti, in qualche maniera, ammesso che ci siano, lei può anche rispondermi, non c'è niente da fare, possiamo solo stare a guardare, per intervenire, per colpire al centro, per sradicare quello che è il centro motore di quello che sta accadendo. Chi è che potrebbe muoversi, chi si sta muovendo e perché chi potrebbe muoversi non si muove? Domanda complessa, ma però lei può darmi le risposte. Allora, la domanda è complessa perché nella rapidità dell'informazione giornalistica noi spesso trascuriamo di dire al pubblico che esistono varie ISIS. Noi mettiamo tutti sotto un unico ombrello: il califfo, il califfato, le bandiere nere e gli attentati. In realtà ci sono almeno tre ISIS diverse. La prima è quella vera, militare, politico-militare, che agisce da 2 anni e mezzo in Iraq e Siria. La seconda è quella filiale libica di 5-6 mila combattenti, in maggioranza tunisini, che si sono impadroniti di Sirte e stanno tentando di sopravvivere all'offensiva delle altre milizie. E la terza è quest'ISIS, tra virgolette, immaginaria che ci circonda in Europa e che non è composta da altro che di singoli o piccoli gruppi di parenti, amici, abbiamo visto il gruppetto belga, il gruppo francese, che si esaltano nella propaganda che proviene dall'ISIS sul campo e decidono in totale autonomia di muoversi contro i rispettivi paesi. Quest'ultimo fenomeno è un fenomeno di terrorismo domestico, non è un fenomeno di terrorismo internazionale. Quindi, secondo lei, da quello che le risulta, non esiste un legame strettamente gerarchico di passaggio di ordini tra l'ISIS siriana, il califfato, il centro, quello che noi vediamo diramare poi in maniera più precisa i messaggi, l'ISIS libica, che è un fenomeno che poi è nato a parte, e l'ISIS immaginare. Quindi il terrorista del TIR fa parte dell'ISIS immaginare, dell'autoproclamazione. Fa parte dell'ISIS domestica. Chiamiamola domestica, che è ancora meglio. Fa parte dell'ISIS francese, è un cittadino francese. Ed è un cittadino francese come erano cittadini belgi quelli che hanno attaccato l'aeroporto di Zaventem. Cioè, finché noi non affronteremo questo problema sotto il duplice aspetto del messaggio dell'Islam deviato, io non lo chiamerei più neanche Islam radicale, è l'Islam malato che viene da Raqqa, da Aleppo e da Mosul, e la realtà però interna di queste comunità, finché non riusciamo a distinguere e quindi a predisporre contromisure nei confronti di due fenomeni diversi e continuiamo a trattarli come un singolo fenomeno, non ci capiamo. Faccio un esempio: l'altro ieri, 3 giorni fa, il prefetto Claver, capo dei servizi di sicurezza francesi, ha dichiarato pubblicamente in Parlamento, con un'eco mediatica enorme, che l'ISIS, il califfato, aveva ordinato di preparare macchine e camion esplosivi e ha lanciato questo allarme. Ieri sera che cosa c'è stato? Una macchina esplosiva? No, perché non hanno gli strumenti. Un camion esplosivo? No, c'è stato un pazzo che con un tir ha sterminato, investendo, le 83 persone. Ma finché continueremo a sovrastimare i confini operativi dell'ISIS domestica e a non colpire i centri di attivazione dei nuclei dell'ISIS in casa nostra, e cioè finché continuiamo a guardare oltre frontiera e non vediamo quello che ci succede dentro casa, ci ci esponiamo a questi attentati. Quindi l'operazione è su due piani, un'operazione esatto. tipo militare in Siria, nel luogo dove si sta creando l'oggetto emotivo chiamato califfato. Se scomparisse improvvisamente, fosse cancellato dalla faccia a terra, uso termini forti perché altrettanto forte poi la reazione, la possibilità che esista un califfato, secondo lei l'ISIS domestica avrebbe meno strumenti per continuare la sua operazione? Non sarebbe un effetto non ci sarebbe un causa-effetto immediato, anzi ci sarebbe una coda di rancore, e ci sarà una coda di rancore quando nel giro dei prossimi 6-8 mesi l'ISIS militare verrà completamente sconfitta. Questo lo dà come dato certo. Sì, perché a Sirte stanno con le spalle al mare e occupano soltanto un quartiere della città. Però siccome le controparti, come loro d'altronde, non fanno prigionieri, questi resistono fino alla morte e può andare avanti Sirte ancora qualche settimana. Raqqa è isolata, l'isolamento di Raqqa porterà all'assalto a Mosul, che è l'ultima roccaforte del califfato in Iraq, e tutto questo però, come abbiamo visto, che cosa provoca nel territorio circostante? Un aumento degli attentati, cioè aumentano le azioni di ritorsione, di ritorsione. Questo potrà succedere anche da noi, cioè se noi domani liquidassimo dalla sera alla mattina l'ISIS e impiccassimo sulla pubblica piazza al Baghdadi, ci potrebbero essere delle reazioni spontanee in queste comunità dove l'Islam deviato comunque attecchisce. Sentiamo quello un attimo, che è successo ieri, sì, prego. No, finisca pure Ballardini, Mantici. Quello che è successo ieri, lei ha fatto bene a fare quell'introduzione, il 14 luglio non soltanto è la data di inizio della rivoluzione, non vedo il paradosso, anzi nasce la civiltà politica occidentale come la conosciamo oggi. Il pensiero moderno nasce allora. Il pensiero moderno nasce da lì. Ecco, io credo che noi sovrastimiamo le capacità analitiche della controparte terroristica. Quello ieri, il terrorista colpisce dove vuole, come vuole, quando vuole, cercando il massimo di utilità in termini negativi, e cioè in termini di morti. Ieri quel disgraziato ha colpito perché c'erano decine di migliaia di persone per il 14 luglio sulla Promenade Sanglée. Se ci fosse stata la possibilità un altro giorno per un concerto rock, probabilmente avrebbe fatto lo stesso. Io non credo che abbia colpito nel giorno in cui nasce la civiltà occidentale. Noi tendiamo, nel tentare di razionalizzare le azioni dell'avversario, la razionalizzazione porta anche a una nobilitazione del pensiero. Sì, attribuiamo strumenti culturali troppo sofisticati. Che probabilmente non hanno. Bruno Ballardini, buongiorno. Bruno Ballardini, esperto di marketing, comunicazione strategica, autore del libro ISIS, il marketing dell'apocalisse, Baldini e Castoldi. Oggi si occupa anche di altro, ma è stata la prima analisi seria e corretta sul fatto che c'era in atto una vera e propria strategia di marketing strategico nei confronti dell'Occidente. Concordi Ballardini sul fatto di questa lettura che ha fatto Mantici sui diversi ISIS? Perché non l'ho mai sentita dire molto così chiaramente. Buongiorno, intanto sì, saluto ciao. Anche l'amico Mantici. Sono d'accordo sull'ultima affermazione, per cui chiaramente noi stiamo esagerando, non essendo abituati a usare il ragionamento simbolico, lo usiamo a sproposito, dando dei significati che non ci sono. Per esempio, giustamente Mantici ha detto che se ci fosse stato un concerto rock avrebbero colpito il concerto rock. Però c'è un altro fatto, io poi mi permetto di correggere alcune cose. Ad esempio, l'ISIS militare non agisce da 2 anni, agisce mediaticamente, ma l'ISIS esiste dal 2006 ed ha agito militarmente anche prima. Poi, esatto, ci sono vari tipi di ISIS, ma si chiamano al-Nusra e si chiamano in vari altri modi. Il problema non è questo, il problema è che c'è un valore simbolico sì nell'attentato, perché sono state trovate anche delle armi che hanno detto giocattolo. Le Figaro ha detto armi giocattolo, è stato subito ripreso da quotidiani italiani e anche dalla RAI. Ma il discorso non è questo, è che portare con sé armi giocattolo è una bomba inesplosa, e invece ammazzare la gente con un camion significa semplicemente che noi vi vogliamo ammazzare con qualunque mezzo, e non è importante nemmeno usare le armi. Quello che mi ha fatto venire in mente invece questo attentato è il briefing, cioè non è che, come dice Mantici giustamente, impiccando al-Baghdadi, che alcuni media arabi in questo momento stanno anche dando per morto. Noi risolviamo il problema, è la scia di rancore, ma non c'è una scia di rancore, c'è un briefing che è stato dato a settembre del 2014 da Mohammed al-Adnani, portavoce dell'ISIS, per cui dichiarava testualmente: se non potete ucciderli con le armi, investiteli con le automobili. Questo mi è rimasto molto chiaro in testa ed è la conferma che loro agiscono anche a distanza di tempo secondo un progetto, un programma a cui possono partecipare. Allora, tutti. Fermo Bruno, devo fermarti un attimo perché devo dare la linea alle informazioni della borsa. È chiaro, l'uomo di marketing ha subito individuato quello che è la forza di uno slogan, di un brand che rimane impresso. È come dire: usate quel detersivo, uccidete con le macchine e i camion, basta dirlo una volta e non si torna più indietro. Nella elementarità della diffusione di un messaggio terroristico, questo è rimasto e questo è accaduto. Fermiamoci un istante, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando dell'attentato di Nizza, stiamo parlando ancora di più di quello che noi possiamo immaginare con i nostri strumenti da uomini comuni, al di là di quello che ci stanno dicendo gli esperti, quello può essere un atteggiamento dell'Occidente. Arrivano molti sms e sono di vario tipo, li potete immaginare: andiamo casa per casa, sterminiamoli tutti, non esiste una possibilità di uscita se non questa. Vorrei cercare di capire nella mente di chi ci ascolta in questo momento qual è il tipo di conflitto che si sta muovendo. Naturalmente non è questa la soluzione da persona civilizzata, lo sterminio porta a porta, casa per casa, ma vi state domandando se dobbiamo continuare a fare le dirette radiofoniche, a leggere i giornali, a scrivere i giornali, a fare analisi? Ho davanti le agenzie di stampa, vi risparmio i telegrammi che stanno mandando tutto l'arco della nostra politica, da quelli scomparsi a quelli esistenti. Ecco, non è con i telegrammi di cordoglio che si affrontano i problemi. Farhat di Como, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti. Sì. Intanto, scusi, vorrei approfittare della sua trasmissione per condannare... Io sono di fede islamica, voglio precisare. Vorrei condannare senza se e senza ma questi atti, questi gesti vigliacchi che poi hanno preso di mira persone inerme che non hanno nessunissima colpa. Su questo anche Lukoil ha fatto un comunicato, l'organizzazione dei musulmani, che prende le distanze. Beh, finalmente c'è una presa precisa, perché con questo lei dovrebbe in qualche maniera togliere argomenti a chi dice no, ma tanto è tutta una stessa cosa. Ma non fa parte neanche del... ma anche della cultura islamica più radicale. Non esiste che una persona prendesse di mira delle persone inermi. Chi uccide, l'Islam dice, chi uccide un'anima senza ragione, sì, come però, se senta, avesse ucciso sì, l'umanità ogni intera. Ogni volta che parliamo di sta roba c'è qualcuno che mi dice questo. La capisco, è giusto. Le possono dire... Ma questo offende anche a noi, perché offende la religione islamica. Sì, sì, questo mi fa piacere. Non possono chiamarsi islamici, questi sono dei coglioni, se posso permettermi. Oh, sì, perfetto. Ma prendo atto che un signore... Gioco? No, scusi, farà che un signore di fede islamica fa quello che dobbiamo fare ufficialmente tutti, dire con noi non hanno nulla a che fare, perché... la guerra, il terrorismo, gli omicidi ritualizzati e trasformati in spot pubblicitari vengono fatti comunque in nome dello stesso Dio che riconosce lei. Questo è palese. È vero anche, però a volte loro, questi signori, io questo caso specifico, infatti sì, specie di Nizza, prima di darle una matrice religiosa, io penserei come autorità francese, prima di investigare bene, fare le giuste investigazioni per capire meglio, perché sennò poi tutto va tutto nel calderone del terrorismo islamico, sì, e tira via responsabilità a chi ne ha di più e sì, chi ha magari... Non voglio solamente offendere i suoi sentimenti religiosi, però oramai che questa frangia di terrorismo, che abbiamo chiamato terrorismo domestico, si muova in nome di una, se vuole, dal suo punto di vista la trovo corretto, di una lettura errata di quello che è il vostro messaggio religioso, è giusto, ma che non si muovano, che per un motivo tipo religioso non si può dire, si muovono per un motivo religioso, la loro è una guerra di religione, non ci prendiamo in giro, non va lì perché in nome, non so, dei principi del socialismo reale o non so di qualunque altra cosa, di una squadra di calcio, lo va perché è convinto di farlo in nome di Allah. Che lei dica non è questo l'Islam, gliene do atto, appartenendo lei appunto a quella fede religiosa, però è una guerra di religione a tutti gli effetti. Gianni da Padova. Buongiorno a lei. Secondo me noi abbiamo sottovalutato, parlo di noi come mondo occidentale, sia ben chiaro, perché l'ISIS come la conosciamo, perlomeno come ne abbiamo sentito parlare, poi adesso abbiamo sentito che addirittura si divide in tre addirittura parti, ma esiste dal 2006. Siamo nel 2006. L'ho detto Ballardini, anche da prima. Ecco, sì. Esatto, c'era anche da prima, quindi siamo nel 2016. Noi è solo da tre anni circa che abbiamo coscienza, perché? Perché vengono ad uccidere, vengono ad ammazzarci in casa nostra. Io, sì, perché prima conosciamo solo Al-Qaeda, a un certo punto Al-Qaeda è scomparso, bravissimo. E si parla, esatto, di ISIS. E adesso parliamo di ISIS. Allora, vuol dire che noi abbiamo sottovalutato questo pericolo, e dirò anche di più. Abbiamo addirittura agevolato la diffusione nella parte, diciamo, Nord Africa, quando i francesi con Sarkozy sono andati a bombardare e a cercare di eliminare, come poi dopo è stato fatto, Gheddafi. Gheddafi a noi non è stata una mossa molto intelligente. Non è stata esattamente, è stata una mossa, per carità, a priori, però io, perché non sono un politico, certamente non posso valutare questa cosa subito. Allora Gianni, fermiamoci un attimo, questo poi do la risposta. Faccio parlare ancora Antonio da Pisa, poi vorrei sentire i nostri ospiti. Lei dice quello che sostiene Ballardini, che in realtà sono grandi fenomeni di marketing strategico, non sempre originati proprio dalle persone, dai luoghi fisici e geografici in cui noi li vediamo collocati, che in qualche maniera condizionano il pensiero occidentale. Antonio da Pisa, Antonio. Sì, buongiorno, senta, complimenti per la trasmissione, ma io vorrei portare una mia testimonianza, perché io sono nato, tra virgolette, e cresciuto in Francia fino all'età di 15 anni, quindi ho vissuto degli episodi di, chiamiamoli così, quotidiani di quello che si può chiamare ingiustizia sociale in Francia. Conosciamo la Francia con la sua guerra di Algeri fin dall'inizio, quindi tutta la problematica di immigrazione che si vanno a collegare anche adesso con questi gesti di fanatismo. Lei dice la spiegazione che mi stanno chiedendo molti ascoltatori, perché in Francia? Cioè, perché in Francia c'è un sostrato di compatibilità conflittuale con il mondo islamico, deriva dal fatto che la Francia è stata l'ultima a avere delle colonie in Algeria, gli algerini in Francia hanno avuto gli stessi problemi che vediamo oggi nelle nostre città, è stato tutto anticipato di almeno 30 anni, quindi da loro c'è questa sorta di comunità più reattiva, anche se ormai naturalizzata, francese a tutti gli effetti, che vanno a riscoprire qualcosa che apparteneva al disagio di due generazioni precedenti. Ritorno ad Alfredo Manti, ci ricordo direttore della rivista geopolitica Lookout News, ex capo del Dipartimento Analisi del SISD. Vediamo se riusciamo a dare un po' di ordine a tutte le cose che abbiamo messo. Ritorno al punto di partenza. Lei ha detto che le azioni devono essere differenziata a seconda, diciamo, del nemico che abbiamo avanti. Rispetto a un nemico come il signore che è montato in un autotreno e è partito per una delle zone più chic che abbiamo d'Europa, secondo lei qual è il tipo di atteggiamento rispetto a quello che dicono gli ascoltatori? Andiamo casa per casa, facciamo i rastrellamenti come abbiamo visto fare nella battaglia di Algeri. Non credo sia questo il sistema. Allora Nicoletti, abbiamo messo moltissima carne al fuoco del ragionamento e della discussione, i tempi radiofonici non sono i migliori da questo punto di vista, per cui vorrei saltare un po' da un argomento all'altro tentando di trovare... La seguo comunque, sì. Allora vorrei sottolineare quello che ha detto l'ascoltatore di fede islamica con un esempio tutto italiano. Noi negli anni 70 e 80 abbiamo avuto un fenomeno di terrorismo brigatista in cui le brigate rosse si definivano comuniste e marxiste-leniniste, in un periodo nel quale il 30% degli elettori italiani votava per il Partito Comunista Italiano. L'Italia ha fatto uno sforzo intelligente ed enorme per distinguere i brigatisti rossi dal Partito Comunista Italiano. Con grande difficoltà, le ricordo, il manifesto degli intellettuali, Umberto Eco. Italiano, perché quando il Partito Comunista si è reso conto non soltanto della ferocia dei terroristi, ma del danno che facevano alla causa che il partito portava avanti, ha tagliato i legami. Ha collaborato con le istituzioni in modo straordinario e io ne sono stato testimone diretto. Quindi dobbiamo dare agli islamici, voglio dire, lo stesso, dovremmo dare agli islamici italiani lo stesso grado di confidenza che abbiamo dato ai comunisti ufficiali negli anni 70. Cioè gli abbiamo detto: capiamo che siete diversi, capiamo che quella è una deviazione, aiutateci a combatterla. Cosa che al momento ancora non è che avviene in maniera così decisa. In maniera sistematica. Siamo ancora al manifesto di Umberto Eco e amici, né coi brigatisti né con lo Stato, ancora siamo in questa zona intermedia, si guarda, sì, si prendono le distanze, ma sotto sotto quasi quasi sono dei compagni che stanno andando avanti lungo il cammino. È un percorso difficile, lei si immagini lo stesso manifesto del 72 contro Calabresi, dove hanno firmato Eco, Scalfari, Lucio Colletti, tutte persone che poi se ne sono vergognate, certo. Ma poi a un certo punto l'Italia ha capito, ha reagito e senza sconfinare dai limiti della democrazia ha sconfitto il terrorismo. Mi sembra molto chiaro quello che dice Alfredo Manti, ci devo fermare un istante che sono già andato fuori di un minuto. Melog, cronache meridiane. Stiamo analizzando da un punto di vista più pragmatico quello che è il fenomeno del terrorismo a matrice islamica, di cui abbiamo avuto l'episodio più palese nella strage di Nizza. Tra le tante cose che sono state dette, ne riassumo alcune che sono i punti fondamentali. Quando diciamo ISIS non possiamo pensare a un corpo uniforme, esistono varie forme, varie maniere, quello che avviene nel territorio principe del califfato, che è la Siria, quello che avviene in Libia e quello che sta avvenendo più o meno in tutta Europa, il cosiddetto terrorismo domestico. Rispetto alla pregiudiziale che viene continuata a fare, ma non appartengono all'Islam, sono una parte, è vero, sì, sicuramente, ma da parte del cosiddetto Islam moderato, ci si aspetta una presa di posizione più decisa, più aperta, più collaborativa nei confronti di queste persone. Marrico da Chieti, velocemente. Sì, Gianluca, salve, un piacere sentirla. Io mi chiedevo, come semplice cittadino, se siamo disposti a rinunciare un po' alla democrazia, a fare una, diciamo, scendere di livello, un po' come avvenne per combattere il brigandaggio nel 1863 con la legge Pica, con la legge Intamante. Rinunciare alla democrazia sta facendo un po' di confusione. Oggi devo far chiarezza. Rinunciare alla democrazia, forse lei dice abbandonare alcuni strumenti propri della nostra civilizzazione e fare il rastrellamento porta a porta, come dice qualcuno. No, non credo sia questa la soluzione. Valeria. Buongiorno. Brillanti, l'hanno massacrati, non era questo il senso. Sì, Valeria da Verona, sì. Credo che noi europei per anni abbiamo colonizzato l'Africa, il Centro America, il Sud America, ma restiamo proprio all'Africa e credo che loro piano piano stiano colonizzando noi. Va bene, è chiaro, signor, è il frutto di una scellerata politica colonialista, è vero, però adesso in questo momento non è colpa mia se mio nonno è andato a fare la guerra in Abissinia, non è colpa del bambino che gli è passato il camion sopra se il nonno aveva partecipato alla battaglia di Algeri, bisogna capire cosa bisogna fare adesso. Bruno Ballardini. Io ho potuto sentire poco degli interventi radiofonici, ho capito cosa ha detto l'ospite musulmano e la mia risposta è che non mi basta, non è sufficiente prendere posizione condannando, perché noi tutti... Quello che ha detto Mantice, esattamente, siamo d'accordo tutti, non basta più dire è un'altra cosa. Ecco, riguardo anche a quello che si diceva prima, si parlava di Islam deviato, non è affatto deviato, è l'Islam dell'Arabia Saudita. Si chiama wahabismo, dobbiamo ricordare questa parolina, perché quando qualcuno dice andiamo casa per casa a stanarli, andiamo a tirarli fuori, ma come fai a distinguere un sunnita, anzi un wahabita da un sunnita? in base a che cosa? Siccome questi sono una minoranza, ma però sono finanziati, sostenuti dall'Arabia Saudita, che è nostro alleato. Che è un paese con cui abbiamo rapporti diplomatici molto sereni. Che è nostro alleato, con cui il nostro governo va in delegazione a stringere le mani insanguinate di questi bastardi. Allora io mi chiedo come facciamo a rimanere alleati di questa potenza e chi lo vuole? Lo vogliono gli Stati Uniti. Dopodiché io vi invito a finire il ragionamento. Fermo un attimo, scusa, perché Fabrizio da Genova, buongiorno, cosa trova inaccettabile Fabrizio? Ma io trovo inaccettabile quello che lei diceva rispetto al fatto che parliamo di una guerra di religione. La guerra di religione... Ho detto le persone che fanno attentati si muovono per un principio religioso. Me lo può negare questo? Loro dicono di muoversi per un principio... Lo dicono loro, chi altro dovrebbe dirlo se non loro? Scusi, qual certo, è il problema? Però la gente individua questo, ragiona nei termini per cui pensa che ci sia in atto una guerra di religione. Qualcuno lo propone, la parola in atto una guerra di religione lo dice lei, non l'ho mai detto. Ho detto ma va bene, ma io l'accetto, mi fa piacere. Io stimo molto quello che lei sta facendo. Quello che dico io, non vorrei che poi la gente ragionasse in maniera così abbastanza del qualunquismo non ho più paura che lo maneggio da almeno 30 anni. Io dico le cose secondo gli strumenti come a disposizione, essendo un mediatore, non ho la verità in mano, cerco delle persone con strumenti culturali più raffinati dei miei per aiutarmi a capire. Se poi la gente fa di tutta erba un fascio e diventa qualunquista, questo è un problema della gente. Io lavoro per dare degli strumenti alla gente. Scusa, riprendi Bruno. Inviterei la comunità islamica italiana a stanare i wahhabiti al suo interno, ok? Perché questa è l'unica strada per riuscire a venirne a capo. Fermo un attimo, mi sembra chiaro. Ballardini dice la comunità islamica deve individuare le persone che sono all'origine di questo fenomeno. Mantici, per il terrorismo cosiddetto domestico, sei d'accordo? Potrebbe essere questa una via? Allora, la strada dell'identificazione del circuito wahabita o salafita, perché i salafiti sono i wahabiti all'estero, è la strada migliore, perché il bacino di cultura, però, è un po' come dire i marxisti leninisti erano brigatisti. Non era così, i brigatisti erano una lettura deviante, estremizzata, violenta, di un credo e di una dottrina che era condivisa da milioni di persone. Quindi io insisto che bisogna circoscrivere il fenomeno alle sue reali dimensioni e, dal mio punto di vista, diciamo, dell'intelligence, è capirlo e penetrarlo da un punto di vista informativo, disseminando sensori in tutti i centri dove ci sono i wahhabiti e tentando di capire chi progetta cosa. Mi sembra chiaro, lasciamo la linea ai nostri colleghi, continueranno a raccontarvi quello che è accaduto.